Sulla mozzarella campana non vorrei che ci fosse un'altra delle speculazioni a danno di Napoli, perché io rispetto fino in fondo il Giappone, la Cina, i paesi orientali, ma vorrei chiedere a loro le stesse garanzie di salubrità che loro chiedono ai nostri prodotti. Io la mozzarella la mangio tutti i giorni, a dir la verità mi fa soltanto bene. Ho la sensazione che se faccia bene a me può far bene anche ai cinesi. Per piacere smettiamola. Vorrei vedere cosa mangiano loro.